acum di testa il mio show. Se vuoi resta, manifesta, mani in festa col bro. Mega Mouth, testaci per DJ Mike. Hocus Pocus, è un testa a testa, con di testa il mio show. Se vuoi resta, manifesta, mani in festa col bro. È un testa a testa, con di testa il mio show. Se vuoi resta, manifesta, mani in festa col bro. Siamo folli, scrivo su mille fogli, vivo giocando jolly, attivo muovendo i colli in giro. Noi siamo folli, scrivo su mille fogli, vivo giocando jolly, attivo muovendo i colli in giro. Testa è il mio alibi, in testa e vocaboli, in festa con diavoli, geste e trisavoli. Salto, preamboli, pugni e funnamboli, togliamo i sandali, a sti finti vandali, mandali. Capugni li rimando agli angoli, pargoli, cresciuti poi rimando agli angoli. Ho testi incisivi che sui denti incisivi sono mezzi esplosivi, sotto a mezzi emotivi. Finti alternativi, privi di motivi, intivi, cecchi come Stevie. Dammi digestivi divi, non li digerisco. Noi suggestivi, innovativi nella disco. Prendi il disco, che è di Cristo. Fa l'acquisto e misto, visto che dopo tanto insisto. Cos'è previsto? Parle, non esisto. Un tarlo che mi incarno nell'anticristo. Noi siamo folli, scrivo su mille fogli, vivo giocando jolly, attivo muovendo i colli in giro. Noi siamo folli, scrivo su mille fogli, vivo giocando jolly, attivo muovendo i colli in giro. È un testa a testa, quindi testa è da show. Se vuoi resta, manifesta, mani in testa col bro. È un testa a testa, quindi testa è il mio show. Se vuoi resta, manifesta, mani in testa col bro. Testaci, prestaci un po' d'attenzione, che onesti ci investi su più di un milione. Detesti i miei testi, antiprogrammazione, tra incesti funesti alla televisione. Immagini finte, facce linde dipinte, dopo dietro le quinte fanno cose più spinte, tra signore distinte ma vestite succinte, fuori un paio di pinte, dallentiamo le cinte, chi stringe, spinge, s'accinge, se poi finge non ci convince, investi virili mica investi in vinili o contesti, non ci impalizzetti passivi, scrivi, scrivi, o ti privi d'allenamento, allenate il mento, attestate sul cemento, talento che testate, intento mi cimento, tempo d'un momento sulla gente in movimento, movimento, abituati alle bugie, colpisco mancina, allucino tra analogie, movimento. Abituati alle bugie, colpisco mancino, allucino tra analogie. Siamo folli, scrivo su mille fogli, vivo giocando jolly, attivo muovendo i colli in giro. Siamo folli, scrivo su mille fogli, vivo giocando jolly, attivo muovendo i colli in giro. È un testa a testa, quindi testa è il mio show. Se vuoi resta, manifesta, mani in testa col bro. È un testa a testa, quindi testa è il mio show. Se vuoi resta, manifesta, mani in testa col bro. È un testa su testa, giocando testa in the show. Se vuoi resta.